7 del mattino, mercoledì 7 novembre 2007. Tutti questi sette vorranno pur dire qualcosa? È la prima domanda che mi faccio stamane. C'è l'Ariele negli studi di Rock FM ad augurarvi il buongiorno. Reduce da un avvistamento spaziale. L'avete visto anche voi? Quel puntino luminoso che correva veloce nel cielo? Ah, fortunati noi che affrontiamo la giornata già dalle prime luci dell'alba, quando, puta caso, metti che un satellite americano passa radente la Terra, tu lo puoi vedere. Sigla! Che inizio spaziale stamattina. Ah, Spadino, mi sento come un antico greco che scruta il cielo. Pane, burro e rock and roll. E trova nelle stelle i segni. La tua colazione roll. I segni della deficienza. Pane, burro e rock and roll. Fino alle 9 del mattino vi trasciniamo per le orecchie. Noi siamo qui apposta. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Il ringraziamento al mitico Ian Dury, compositore, autore di Sex, Drugs and Rock and Roll, canzone che abbiamo rubato per costruire la nostra sigla. Non lo ringrazio mai abbastanza, ma non riusciremo mai a ringraziarlo abbastanza per la meravigliosa canzone che ci ha regalato e soprattutto per la bellissima sigla che ne è poi seguita. Mi sono presentato io, ho presentato il mio regista, ma anche all'appello Mr. Trombetta, che è già qui, e ovviamente il nostro rocker di riferimento. Anche quest'oggi passerà a trovarci, forse, Roberto Fricantoni, direttamente dal Fil degli Schiantos, da Bologna. Un uomo che si è trattato male nella vita e si vede, e si sente anche. È per questo che lo vogliamo al nostro fianco. Puntata 124, ricca di novità. Abbiamo un nuovo spot dell'Eleonora Duse, richiesto a gran voce da molti di voi. Ma l'Eleonora Duse non si sente più? Ecco, torna nella puntata di quest'oggi. Parecchie stupidate da fare, insomma. Vediamo di iniziare al volo con un po' di buon rock and roll. Buona giornata! Restate con noi. How you doing out there? Beh, io sto abbastanza bene. Questa è di? Mamma. Well, you know, I used to have them just about all the time, but I found a way to get out of it. Let me tell you about it. Sitting in the classroom thinking it's a drag. Listen to the teacher rap, just ain't my bag. New bells ring, you know that's my cue. I'm gonna meet the boys on floor number two. Smoking in the boys' room. Smoking. Feel me up with your rules, or everybody knows that smoking Station, che se la sfumacchiano nella stanza dei ragazzi. Smoking in the Boys Room. Pane, burro e rock and roll, un programma che in 124 puntate sta imparando a sentire gli umori dei propri radioascoltatori e delle proprie radioascoltatrici. Oggi mi sa che li ho terrorizzati, cioè, quell'inizio parlando, delirando sui satelliti americani e le stelle di passaggio, li ha un filo spaventati. Me ne accorgo subito, me ne accorgo dai primi 3 minuti di diretta, perché si capiscono subito. I primi messaggi che arrivano o che non arrivano vuol dire che c'è qualcosa che non va. Leggo un po' di gelo nell'interazione di quest'oggi, forse dovuta a questo inizio un po' delirante. Tranquilli, mi ripiglio, adesso mi faccio un cafferino e dovrebbe tornare tutto a posto. Intanto vi invito a partecipare, a iscriversi ai nostri corsi, a proporsi come redazionisti della nostra trasmissione a un semplice numero di SMS, che è il 335 100 77 77. Mentre vi ricordo anche la casella di posta elettronica, che poi potete usare nel corso della giornata come più vi pare e piace, come per esempio ha fatto Francesca, che fa una bellissima, mi scrive una bellissima mail di complimenti: ariel@radiorockfm.com. Volevo solo dirvi che la vostra voce morbida mi sveglia tutte le mattine, giusto pochi minuti prima che si sveglino i pupi. Sono una mamma rock che ha la tua età ed è un vero piacere. Continua così. Continueremo, cara Francesca, anche grazie ai tuoi complimenti, che ricordo, complimenti sono sempre graditissimi alla nostra casella di posta elettronica, ma anche a noi che li leggiamo. Ecco. Un risveglio morbido, dicevamo, perché non allora un risveglio sexy? Ah, che fa anche un po' ascolto, Pane, burro e rock and roll, una trasmissione che punta agli ascolti, e quindi perché non proporvi uno spogliarello così alle 7 e 8 minuti primi? O voi fortunelli che vi svegliate nel lettone matrimoniale in coppia, amica o amico, su, dai, improvvisa uno spogliarello. Possiamo guardare? Ma io una sbirciatina ce la darei. Che so, voyeur. You can leave your Ed è il miracolo della vita ogni mattina vederlo varcare dall'ascensore di Rock FM le soglie della nostra stazione radiofonica, Roberto Fricantoni, buondì! Buongiorno! Mi sono inciampato sulla sogliola della porta, come dice qualcuno. Andiamo a bomba sull'almanacco di quest'oggi, 7 di novembre. Le chiederei di non fare la solita parte dello sciovinista di turno, perché la prima notizia è una notizia bella, posso dirla? Ma la dica, io l'ho già sbirciata sui fogli della redazione. Era il 7 novembre del 1893 quando le donne del Colorado ottengono il diritto di voto. Ce l'hanno fatta, maledette, no. Ci sono riuscite. Chiuda la bocca, maestra, e passiamo a un'altra notizia. Il diritto di voto, non avevano il diritto di votare. Sta fingendo, lo fa solo per fare un po' lo stupidino. Era il 1974 quando la rivista Rolling Stones riferisce, senta qui che cosa buffa, sì? Che Ted Nugent ha vinto il concorso nazionale al tiro contro gli scoiattoli, colpendo una povera bestiola alla distanza di quasi 140 metri. Nei tre giorni della manifestazione il chitarrista ne avrebbe fatti fuori altri 27 con un'arma da fuoco. Ma questa è veramente incredibile. Ted Nugent a caccia di scoiattoli, un bu bu bu bu bu, un sotto down. Io avrei voluto dare anche il diritto di voto agli scoiattoli. Sarebbe stato meglio in questo caso. Ho una velina, è arrivata una notizia, sì. Dall'aldilà, dice che Ted Nugent, sì. Nugent, sì. È destinato a reincarnarsi, e sai in quale scoiattolo. Animale? Nella prossima vita sarà uno scoiattolo. Così impari, Ted. Testa calda, Ted, hai una tedda calda. certe canzoni, che fettaccio che fanno, eh? Crosby, Stills, Nash & Young, con questa loro Woodstock, hanno trasformato anche te, mio caro amico, che stai stringendo il nodo della cravatta, in un giovane fricchettone cappellone. che si reca a Woodstock, non nel suo posto di lavoro, per 3 giorni di pace e amore. E questo è un po' lo spirito col quale affrontiamo ogni puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. Sarà la presenza di Frick, ma noi ci sentiamo un po' dei fricchettoni così, che si stanno recando a Woodstock con il loro pulmino colorato e le loro sigarette con dentro la roba dei giovani, pronte ad essere arrotolate in qualsiasi momento. Puntata delirante oggi, ve la prometto, ve la garantisco. Perché la scaletta è così lunga e il tempo così stretto? Saluti, un po' di strombazzate. Stavate perdendo il ritmo di richiedere le strombazzate di Mister Trombetta, invece vedo con piacere che a volte vi torna in mente. Questa è per Giorgio, che ha fisiologia stamane. Bella Giorgio, sta in una botte di ferro. L'altra è per Ciro. Finalmente, dopo 2 mesi, riesco a risentire il mio programma di riferimento. Peccato che era anche 2 mesi che non mi alzavo alle 6 e non me le ricordavo così tragiche le 6. Urge strombazzata. Eccola là. Un saluto anche al nostro napoletano di riferimento, sempre presente al nostro numero di SMS. La strombazzata vale anche per colui che mi scrive mattinata difficile. Anche per Walter da Genova, che commenta il film di Dario Argento, presumo l'abbia visto la scorsa notte, bellissimo, La terza madre, grande Argento, ciao Walter. Potremmo inventarci, era già stata anche proposta una rubrica sul cinema, via Pane, Burro e Rock and Roll, vedremo di inventarci qualcosa prossimamente. 335-100-7777 le nostre coordinate, mentre via mail il saluto, come al solito, caloroso al nostro tabaccaio Carlo, che ogni martedì ci regala un paio di numeri per il lotto e ogni mercoledì ci fa sapere che non sono usciti. Continua però l'annoso problema del... Allora, provo a rispiegarlo per la 100ª volta. Chi sa giocare al lotto non gioca 2 numeri una volta sola, li gioca per un tot di tempo. Noi, mannaggia, noi ci siamo messi questa cosa in testa che li giochiamo una volta sola. Perché o tutto o niente, questo è il nostro motto. Ci segnala Carlo che i numeri dati il 23 ottobre sono usciti invece. Sono usciti su Milano. E quindi Carlo ci tiene a farvi sapere che se proprio proprio voi non volete fare come noi e li giocate più volte, ci sta che vincete, come fa tra l'altro la portinaia Carla, che ormai si è convertita a Rock FM, che saluto, salve Shura, che ci definisce casinisti patentati, perché lei va avanti a giocarli, ci sta che vince, e noi no. Caro Carlo, resistiamo, no? O tutto o niente, l'abbiamo scelto, andiamo avanti così. Avete bisogno di qualcosa di buono per il vostro risveglio? Salve, Giovanna. No, Ariele mi chiamo, ciao. Il mio nome è Roy. Il mio Ariel, te l'ho detto. Sei del Texas? No. No, di Gallarate. Ma dai, anch'io. Provincia di Varese. Eccolo come vi risveglio stamattina. Con i Metallica. Nothing else matter. Ma sì, ma buttate tutto all'aria. Concedetevi questi 6 minuti di metallo romantico. Vi serviranno, sì, farete riserva d'ossigeno per la giornataccia che vi aspetta, un maledetto mercoledì 7 di novembre. Trusting who you are. felt this way. Life is ours, we live in our way. Hold these words I don't just say. I see and I find in you every day for us something new. Open mind for a different view and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. Giusto che loro da casa, dalle macchine, ce la possono cantare e io no, solo perché ho un deficiente in regia che mi apre il microfono. Tienilo spento, che si incazzano là fuori. Nothing Else Matter, Metallica. E attenzione perché in questo stacco racchiudiamo l'essenza di Pane, Burro e Rock and Roll. Ma non solo, racchiudiamo l'essenza della mia vita, fondamentalmente, delle mie relazioni sociali e quant'altro. Così all'apice, all'orgasmo pieno dei nostri radioascoltatori,